Siamo con Cira Santoro, responsabile Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno e responsabile del settore Teatro Ragazzi di Ater Fondazioni. 100 anni e 3 giorni, 100 anni e 3 maestri. Ci può spiegare il progetto partendo proprio dal titolo? Così lungo, bello, complesso. Sì, è un titolo che in realtà contiene una visione che parte da alcuni centenari che si susseguiranno da quest'anno fino al 24. Forse casualmente, ma forse non è solo un caso, Mario Lodi, Don Lorenzo Milani e il maestro Manzi sono nati a un anno di distanza e quest'anno cade il centenario di Mario Lodi, l'anno prossimo cade il centenario di Don Milani e tra 2 anni quello di Maestro Manzi, senza poi parlare del fatto che nel 21 c'era il centenario di Rodari, a cui abbiamo cercato di costruire anche lì un omaggio, ma poi ci hanno chiuso per pandemia. Quindi l'idea è quella di approfittare proprio della celebrazione di questi 3 centenari per recuperare le parole chiave di questi maestri, per recuperare le loro riflessioni, la filosofia che stava dentro la loro pedagogia, il loro modo di fare scuola e la relazione che il loro modo di fare scuola aveva con il teatro e con le arti in generale, per riportarlo a oggi e per ridarci oggi delle parole forti, delle parole chiave su cui ragionare. Quindi quest'anno sarà la dedica alla figura di Mario Lodi. E ci può spiegare brevemente per i nostri ascoltatori chi era? Mario Lodi è stato un maestro di scuola elementare, importantissimo, perché diciamo che lui, insieme ad altri maestri che innovarono la scuola tra gli anni 60 e 70, hanno praticamente cambiato radicalmente il modo di fare scuola. Intanto Mario Lodi inizia a fare scuola, diventa maestro subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi il primo tema che porta in classe è come insegnare la democrazia, come far passare il concetto di democrazia, che cosa significa applicare un metodo democratico classe. E quindi parte mettendo al centro il bambino e l'ascolto del bambino, mettendo al centro gli interessi del bambino, per cui la didattica non è più verticale ma diventa orizzontale e nasce da quelle che sono gli interessi del bambino e l'osservazione che il bambino fa del mondo esterno. CP, che è un libro, uno dei libri più importanti di Mario Lodi, su cui noi faremo poi anche presenteremo lo spettacolo, viene scritto dai bambini con lui, è un processo di scrittura condivisa e nasce dal fatto che i bambini osservano alla finestra un nido di passeri, di uccelli, intorno a cui costruiscono per un anno intero delle storie, naturalmente identificandosi con questi uccellini e quindi con tutto quello che gli succede. Quindi questo ovviamente in un contesto politico e storico che ha saputo cogliere queste innovazioni è diventata un'innovazione strutturale, per cui la scuola, diciamo così, ha assorbito queste metodologie. È chiaro che oggi vanno appunto riprese. Ecco. È un po' montessoriano Mario Lodi, con questo partire al centro del bambino? Sì, diciamo che va oltre Montessori. Sicuramente la Montessori è alla base di questa pedagogia, ma viene portata oltre perché oltre a mettere al centro il bambino c'è anche il mondo con cui il bambino si relaziona. E quindi non è più solo l'universo scuola, ma è la scuola che entra nel mondo e il mondo che entra nel teatro. Quindi i linguaggi artistici, ma non solo, i mestieri, gli artigiani, la storia e l'attualità, quindi no, c'è il giornale di classe, c'è la tipografia, insomma tutta una serie di attività per cui la scuola si connette al mondo fuori e quindi per noi teatri che lavoriamo sul territorio questo è un elemento di interesse fortissimo. Questo progetto a chi si rivolge? Che pubblico vi aspettate? Beh, intanto si rivolge alle insegnanti in primis perché prevede un laboratorio di formazione con Giorgio Scaramucci, che è stato uno degli allievi di Lodi nel mondo del teatro ragazzi italiano, ha conosciuto Lodi, ci ha lavorato, ha riflettuto e oggi è il curatore dei testi di Lodi, i testi teatrali di Lodi, lui è il curatore ufficiale. E quindi abbiamo un laboratorio destinato alle insegnanti, abbiamo una tavola rotonda che ha l'obiettivo proprio di mettere in connessione insegnanti e operatori e quindi di riaprire il dialogo tra teatro e scuola e poi anche a quelli che sono i futuri insegnanti. Martedì mattina il 13 in Casa della Conoscenza facciamo un incontro con gli allievi dell'istituto del liceo Da Vinci, dove ci saranno i ragazzi che studiano l'indirizzo socio-pedagogico e gli studenti universitari di scienze dell'educazione, ma è aperto poi a tutta la cittadinanza. E ci ricorda i luoghi, le date e eventuali collaborazioni di questo progetto? Sì, le collaborazioni sono tantissime, quindi prima di tutto il comune di Bologna che ha sostenuto questo progetto nel bando destinato alle periferie, ovviamente il comune di Casalecchio che che patrocina il progetto, e l'Università di Bologna e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin. Abbiamo il patrocinio del Comitato del Centenario Lodi e poi Patto per la Lettura, l'Infa, siamo all'interno delle settimane pedagogiche e quindi diciamo che veramente è un progetto che ha generato tantissime relazioni. I luoghi sono prevalentemente a Casalecchio, a parte una maratona di lettura che si terrà alla Barca nelle scuole Giovanni XXIII, per il resto il progetto avviene tutto a Casalecchio tra il 12 e il 14 di dicembre. Il 12 di dicembre al pomeriggio c'è un laboratorio teatrale per le insegnanti di ogni ordine e grado ancora aperto. Il 13 c'è l'incontro in Casa della Conoscenza con il Liceo Da Vinci e studenti universitari e scuole, e il 14 invece la tavola rotonda in aula consiliare nel comune di Casalecchio, e alla sera poi abbiamo lo spettacolo CP che invece è destinato alle famiglie. È un orario terribile per le famiglie, me ne rendo conto, alle 20, ma lo spettacolo dura 50 minuti e alle 9:30 i bambini possono stare a letto, ma con CP che insomma verranno a sentire una storia della buonanotte meravigliosa.